Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. A parlare delle quote del 30% di alunni stranieri in classe dal prossimo anno scolastico, a cominciare dalle prime, alla primaria, secondaria di primo e secondo grado. Anche se il provvedimento annunciato la settimana scorsa dal ministro della pubblica istruzione Gelmini non comporterà cambiamenti epocali, infatti dopo l'annuncio è arrivata anche la precisazione: non verranno contemplati nelle quote i bambini e i ragazzi nati in Italia, visto che in realtà quasi tutti i bambini che frequentano ora la nostra scuola, soprattutto la primaria, sono nati nel nostro paese. Probabilmente il prossimo anno non cambierà un granché. Comunque staremo a vedere, sicuramente torneremo a parlarne ad iscrizione ultimate. Intanto, dopo i presidi che abbiamo sentito la settimana scorsa, oggi sentiamo cosa ne pensano invece i genitori stranieri e non, studenti e, perché no, anche bambini. Scuola primaria Carlo Pisacane a Tor Pignattara a Roma, quindi italiano ci è rimasto a malapena il nome, anche se ad un certo punto volevano modificare anche quello. Queste le voci raccolte dalla nostra Maria Chiara Grandis. Mia provenienza? Francese. Io penso che l'apprendimento e l'integrazione va molto bene in questa scuola, cioè io vedo delle cose veramente sorprendenti dal punto di vista dell'italiano per i piccoli che arrivano senza parlare. Adesso voglio vedere come l'attuano qua. Il ministro dice che nelle classi italiane ci devono essere più italiani e meno stranieri. Sì, c'ha ragione, sì. Perché alla fine i bambini trovano difficoltà a parlare italiano, a studiare l'italiano. Io lo trovo che non c'è nessuno italiano dentro, o forse uno o due. Sì, ma se loro non vuole portarli, c'è questa differenza, c'è che sono stranieri. Di dove sei? Della Siria. È giusto che nelle scuole italiane ci siano più studenti italiani e meno stranieri? No, non è giusto, perché già i nostri bambini sono nati in questo paese, già sono italiani. Se magari qui ce n'è il 90% e di qua ce n'è il 50%, la cosa sarà un po' più distribuita, penso. Più italiani adesso è poco. Sempre uguale, tutti gli stranieri italiani. Lei da dove viene? Bangladesh. Bisogna, non è solo per stranieri, è scuola per tutti. Sarebbe bella l'integrazione, se sono tutti bambini stranieri che integrazione è? È anche vero che la maggior parte abita qui, quindi bisognerebbe trovare un modo per evitare che loro abbiano dei disagi. Basta vedere se nella zona gli abitanti immigrati sono più del 30%, come fanno in una scuola a essere solo il 30%. 30%, meglio più italiani, così parla bene, perché c'è qualcuno cinese, parla solo cinese. Non discuto su sta cosa. Bisogna vedere effettivamente che cos'è lo straniero, il bambino extracomunitario, il bambino cittadino italiano ma di colore diverso. Poi sinceramente la mia esperienza personale di questa scuola a maggioranza di stranieri è positiva comunque. Cioè i bambini sono bambini, vanno d'accordo con tutti, va, e poi magari più in là, forse alle superiori io potrei capire. C'è un problema di apprendimento per i bambini italiani nelle classi a maggioranza straniere? Se un bambino viene direttamente da un paese straniero è chiaro, perché quel bambino blocca la didattica. Ma questo succede pure a tanti italiani, sa? Poco distante dalla Pisacane, l'Istituto Tecnico Giorgi. Fra i ragazzi il dibattito è molto aperto. Per me non c'ha senso sta cosa, perché anche gli altri ragazzi hanno il diritto di studiare come tutti gli italiani. Cioè, perché se lo mette in classi separati, altrimenti il nostro livello si abbassa, perché non riusciamo ad andare avanti, perché loro magari stanno più indietro. Io non dico che non devono studiare, però si devono avere classi separate. Sì, ma loro come fanno ad imparare anche le lingue, no? L'italiano? Se stanno con noi magari imparano di più. No, con le classi a parte. No, non ci sono le classi a parte, perché comunque tu devi pensare, no, che se gli italiani non vanno avanti non è colpa dei stranieri, è colpa nostra che non studiamo. Ma la vostra esperienza diretta com'è? Voi avete stranieri in classe? Sì. Come va? Bene, cioè non stranieri a livello che di non sapere la lingua, ma stranieri nati nel paese. E sono al passo con voi o no? Sì, va bene, ovviamente se nascono nel paese è molto più normale, ma magari persone che arrivano dopo, che non stanno al nostro livello, è giusto che fanno classi a parte, secondo me. Sono straniero. E allora? Dipende da quelli che vengono. Vengono ragazzi appena arrivati che neanche parlano, è complicata la cosa. Tu sei nato in Italia? No. Ciò nonostante parli l'italiano molto bene. Sì. E tu? Io sono italiana. Cioè, non dovrebbe esserci questa differenza. Perché sarebbe ingiusto. Cioè, alla fine siamo tutti uguali. Da Roma a Milano, scuola primaria Cadorna, fra quelle con la maggiore concentrazione di studenti stranieri fra i banchi. Il nostro Federico Maselli ha avvicinato genitori stranieri e italiani. Qualche risposta, ve lo anticipo, è davvero sorprendente. Cominciamo dalle mamme e dai papà stranieri. Io sono in Italia, fanno quello che vuole loro, io cosa io devo dire? No, secondo lei è giusto perché vogliono evitare che ci siano classi solo di stranieri? No, non è giusto perché siamo tutti umani, siamo tutti persone, non è giusto. Quello io è razzismo proprio, un tipo razzismo. Io vivo qua in Italia da anni, io mi sento italiana. Non so cosa pensare perché il mio non è del tutto italiano. Eh sì, soprattutto imparano a scuola la lingua italiana, certamente. Fra di loro, a volte loro parlano meglio di noi l'italiano. Di noi che non siamo italiani nati qua, ecco. I suoi figli sono nati in Italia? Eh sì, sono nati in Italia, però io a casa parlo il mio idioma, ovviamente. Ah, non è giusto, no? E dove vanno? Poi dove vanno altri bambini, i stranieri, dove vanno? Il provvedimento vorrebbe mischiare italiani e stranieri, perché per esempio in questa scuola ci sono solamente stranieri in maggior parte. Sì, sì, sì. E allora mettere italiani e stranieri per l'integrazione. No, non è giusto, no, no. È un provvedimento della Gelmini, del ministro, che vuole che non ci siano classi di soli stranieri e classi di soli italiani. Va bene così. Perché per me gli italiani sono più intelligenti, sono più, e non possono stare con gli stranieri che sempre dietro. È una cosa che bisogna vedere, diciamo, cioè vedere da una prospettiva realistica più che idealistica, perché ormai ad esempio questa è la scuola che ha un'incidenza maggiore in tutta la Lombardia di stranieri, se lei vede per un bambino, per ogni bambino italiano ci sono 5, 6, 7, 10 stranieri, quindi bisogna valutare un attimino profondamente la situazione, perché giustamente se siamo qua dobbiamo integrarci nel migliore dei modi e iniziare dai bambini è il modo migliore secondo me. Mischiarli, sì. Così mischiarli si va bene, perché così imparano anche le parole italiane, anche imparano tutti i bambini. E lei sapeva che dal prossimo anno non ci potranno essere più di un certo numero di studenti stranieri in una classe? Perfetto, è giusto che una scuola ci siano molti italiani piuttosto che stranieri. Italiani con gli italiani, gli stranieri con gli stranieri. Cioè, non è meglio integrare piuttosto che marginare? No, per me no. I suoi figli sono nati in Italia? Sì, nati in Italia. Lei preferirebbe che i suoi figli stessero in una classe con anche altri italiani? Sì, sì, sì, sì. Perché è nata qua, bisogna loro assaggiare qua. Poi così imparano anche meglio la lingua, sì. Si adattano. Sì, sì. Sì, sì, così siamo tutti amici. Vivo qui e siamo tutti amici qui. I suoi figli sono nati tutti in Italia? Sì, sì, c'è la cittadinanza italiana qui. Ah, perfetto. Quindi lei è favorevole comunque a mischiare le classi? Sì, sì, questo è meglio. Allora, perché? Perché siamo vivi qui in Italia. Quando io non voglio togliere i miei bambini senza l'italiano, così allora vado al mio paese. Quindi è meglio, crescono anche in mezzo agli italiani, parlano italiano, si integrano. Sì, anche amici, conosci bene qui. Siamo vivi qui, allora ho bisogno di tanti amici qui. Senza gli amici di italiano, araba, così di là, ma allora cosa vivi? Sentire qualcuno che pensa ancora che gli italiani debbano stare con gli italiani, gli stranieri con gli stranieri, fa davvero un po' venire i brividi, almeno a me. Qualche brutta risposta però arriva anche dagli italiani. Ce ne sono troppi. Ce ne sono troppi e comunque gli insegnanti adesso le hanno diminuite e farebbero anche fatica a imparare. Mi sembra che è una cosa giusta, se no ci dobbiamo integrare noi, non loro. Mi sembra normalissimo, anzi era un provvedimento che avrebbero dovuto già prendere prima. Ha senso se gli studenti stranieri sono bambini che non conoscono l'italiano, che sono appena arrivati, per cui quindi è giusto che magari se sono troppi penalizzano l'insegnamento per gli altri bambini. Se sono bambini che sanno bene l'italiano, che sono nati e cresciuti in Italia, non ne vedo proprio il senso. sa che in questa scuola ci sono tantissimi stranieri, io però con la bambina mi trovo benissimo, secondo me il livello della didattica è molto alto, quindi non vedo proprio il senso se i bambini comunque conoscono l'italiano e sono ben integrati. Ecco, quindi è un buon modo per integrarli? Sì, assolutamente sì, sì, soprattutto poi se le scuole come questa adottano anche delle iniziative volte ad integrare, a far conoscere anche le mamme, anche i genitori di diversa religione, di diversa cultura, secondo me è un buon modo. Certo, sì, alla base appunto almeno conoscono l'italiano e vengono seguiti in modo appropriato. Ecco, quindi sua figlia si trova in classe anche altri stranieri? Sì, sì, sono quasi la metà nella sua classe, i bambini stranieri. E ha fatto amicizia? Sì, sì, sì, sì, sì. Rimane comunque magari un po' il gruppo degli italiani, il gruppo delle bimbe straniere, questo un po' sì. Comunque non hanno problemi di integrazione nella sua classe. Dal prossimo anno non ci si potranno iscrivere più di un certo numero di studenti stranieri in una classe. Ecco, cosa ne pensa? Malissimo. Io sono soddisfatta di questa scuola e trovo, è così che è venuta fuori, questo è il quartiere dove abita la mia nipotina e quindi desidero che loro crescano nel luogo dove abitano, insieme agli abitanti del quartiere. Quindi ecco, l'integrazione può partire dalla scuola? Sicuramente sì, anzi, penso che sia il mezzo migliore. E tanto per cambiare, la saggezza e le parole più belle arrivano invece dai più piccoli, dai bambini. In classe tua ci sono sia italiani che stranieri? Sì, ce ne sono. Tu dove sei nato? Qui a Milano. Sindacati tutti in terra. Senti, sei contento se ci possono essere sia italiani che stranieri dal prossimo anno in una stessa classe? Sì, sono molto contento. Perché? Perché ho dei nuovi amici. Tu sei nata in Italia? No, sono rumena. Ah, e senti, come ti trovi? Nella tua classe sono anche altri ragazzi italiani? Sì, alcuni, ma diciamo sono quasi un po' di più stranieri. Tu sei contenta se dal prossimo anno ci potranno essere in una stessa classe sia italiani che stranieri? Sì. E non solo stranieri, perché? Perché così conosco più lingue, più cultura degli altri. Potete riascoltare questa puntata su radio24.it, ci risentiamo la prossima settimana.